Monsieur, buonasera. Babbo, mi sento un po' questa sera, quindi portato a lui e boh, non so altro. E ma va qua. Oggi nulla, solo a portare il cane e basta. Io lo credo, domani a rifatto. Allora, da domani cominciamo a rifare tutto. E fate così. No, finiremo. E vabbè. Quindi sarà così. Boh. Ci vedete a Ciamballa. Quindi da facciare così per poco. E allora, mi sa che devo fare che cosa, eh? E infatti, io mi farò difendere i bacchi. E mi trovagliando in casa, quindi un bel avvio. E tutti dice bacchi da bacchi. No, è grande nuovo e va generato. Quindi, oggi è toccato a me. E allora, ma... Se io posso dire a Sarugia andiamo a danare. Ah, infatti, c'è quella rezzetta che ha buttato un cane e dopo mi sono bruciato. Ecco, ma Melone fa vedere una televisione. Ha detto che sta tranquillo tutti quanti, che saremmo spellati. E allora, ma sta tranquilli, che un domani saremmo spellati. Ecco. Sono fatto già tutti i mattessi alla ministra già fatto già aumentato gli stipendi a cosa e la gente morendo di fame, ma chissà, non so ci ha pianito domani, non so se riesce a godersi, ma per più che si legge dalla famiglia sbagliato, finito, non è finito tutto di mangiare, ella, con la legge è passata, ma sono finito che c'è denti, c'è denti sono finiti, va. Non tocca più nulla, quindi hanno finito di mangiare, hanno detto che sono denti fattivi, ma fame, mi ricordo. Mi dice del battito democratico, bisogna mettere nel bagliccio per fare la ciamballa lì. E Gisù è a far felici tutti quanti i fuori, erano lì solo in tre partiti e basta. Ma, chissà, le trazioni, i devi d'altro, aumenti dei due giorni, si sa che c'è una cosa buona. Ah, la legge che hanno fatto è... Fagliti di bisogni, pigliani droghe, cose che faccio a fare con il telefonino, c'è guai. Se c'è anche la sospensione di patente, oppure 3 mesi di carcere. Ecco cosa è. Se faccio a fare con il pigliani con il telefonino. A 1500 euro la multa. Ma se causa un incidente hanno appena 3 mesi in carcere, quindi speriamo che ci abbia questa cosa. E poi fare le cose di nuova patina, deve avere un casco, assicurazioni, deve avere e non andare in lui. Ma senza più in mezzo, senza gatto, senza gitto, senza gettato. E incidente un bel. Ah, ma va tutto a dimostrare. Hai curato dal Gaburu, Gioe. Tu chi sarebbe per il mezzo? Sapete, l'incidente che per fare dei nomi, due femmini. Una al pronto soccorso e l'altra è morta, un 24enne. Cazzo, no, che va, io me ne volevo, sto cosa mi farà a 30, io me ne volevo, anche se no è no che mi faranno una moneta, mi faranno, mi fino a Raglisa, se no via di Raglisa, no, io la salì, mi ero a farrenne sotto un botteggio di ci stanno il cazzo. Cazzo. Io sono entrato contro mano e dovevo abbassare qualcosa. Ma tu mi circuito a me, mi circuiti. Non so pensato che ne è entrato contro mano. Ho voluto entrare a fare forza. Non farà dalla guardia, ne farà da difendere i randelli. Ha detto che entra a forteggiare. Ma giù mamma a far lui ho voluto un chiuso. Certo, boh. L'unica cosa è lasciarli andare, che si fugliano a quello così fugliano. Certo, la gente prepotente da voi. Pure un rivale prepotente, gli dovrà dicendo che valiano in ragione. Ha detto, ma no, però so ciechi o non vivere. L'unica cosa è lasciarli vivere. Botteggio da degli altri. Vuol dire che è da voi sarà Edo a preoccuparsi. Raga, esci, gran buona anzi, a vedere che a un bel bocco non esci. Quindi, a te gagliamo per farci. E l'unica cosa a farli così. Se va presto, esce da voi. Ehi, va bene, in questo momento però se va presto non riesce a uscire. Tanto tutti i demoni alla macchina da mezzo, i demoni. Tanto, vado a briare. Quindi, meglio rimanere calmi e andare dritti, gente. E vabbè, ogni giorno bisogna stare calmi. Io dovevo far presto, la saranda della ciocca, dove la ciocca attaccata alla cantonata. Ora sono i gurri. Tanto tutto è di gozzo. E chi se ne frega? Si vuole lasciare a bisognare. Meglio rimane in fagni noi. Se no dopo l'ho piegato l'altro si arruineggia. E se non c'è. Ma si fa che non cambia qualche cosa. Speriamo così, vabbè, mentre noi ne rappelliamo noi, tanto a ciambano ci può ciambano nulla. E chiara la voce, tranquillo, radio 5 perfetta, sì, è la giuvita che c'è con l'antenino. È più bassa la modulazione, ma no, chiara è chiara, certo, comprensibile. Si sente bene anche. Basta me, una nave. Una petroliera si è tagliata in due, si è tagliata. Una petroliera si è tagliata in due. Non so chi dire. La butta, senza la butta di davanti. E infatti. La galla è la galla. Quindi. Si spazia. Dopo essere nel giorno da lontano da noi e mare fa un buco certo e infatti dice appunto è mezzo buona e mezzo grande ad anche alla cosci non resto. E tutto a galla, cioè cercando di rimorchiare e buttarsi da fare un buco. E tutto intorno è tutto inclinato. Ma lo so, sono sicuro che è carica. Sicuramente è da come si è tolta è carica, purtroppo. Hai fatto vedere. Tutto un re, manca solo la punta, rimanca. Ecco cosa è. La punta era anche a leggendi, a contusioni. E sicuramente ci avranno chiuso le saracinesche dei serbatoi, quindi l'acqua non ne entra. Non c'è soltanto in quel pezzo lì. E la punta lo stesso, perché ho detto che era a leggendi. Quindi rimane così, rimane a galleggiare. E tutte le navi e barche intorno ci aveva. quindi c'erano i rimorchiatori vicino, quindi ce la porteranno piano piano, porteranno al porto. E infatti andiamo a girare Bolfani, ma dite che tutti gli hanno arrivato intorno, perché scappareria e cose, beh. Quindi piano piano gli altri la buttano. Ehi, lui era tutto pieno di bassi e nati. Quindi già andavano avanti, rimorchieranno, la portano, dove la devono portare. È tutto in fili. No, gli manca soltanto la punta di davanti, gli manca, che era galleggiando, quindi ci sarà questione di 5-6 metri o 10 metri, boh, che manca un pezzo di una punta e basta. A chi ragalleggendo, dove sta tirando brunice, sta tirando. E ciao, abbiamo di rabbucciani. Ok, Gio Maria, a risentirci alle prossime. Ciao, Gio Maria.